Cari amici, ho appena terminato di recitare il rosario e sento forte in cuore di trasmettervi questa esperienza che io ho vissuto, casomai possa servire anche a voi nella vostra vita. Allora, io vi confesso che tante volte in passato ho fatto molta fatica a recitare il rosario, in particolare perché arrivavo alla sera ed ero stanco ed ero di malavoglia e qualche volta anche più di una volta l'ho saltato, altre volte mi sono messo con una volontà di ferro, ma dicendolo con un occhio aperto e un occhio chiuso. Adesso, invecchiando, ho un po' più di tempo, ma forse chi mi ascolta, se vuole, un po' di tempo ce l'ha anche lui, ce l'ha anche lei. E allora volevo dirvi come ho recitato questo Santo Rosario, perché è veramente una grande preghiera. È un po' come la messa, no? Tutti dicono che è importante, che è la più grande preghiera, e poi non vanno a messa i giorni feriali, pur potendolo fare. Il rosario, oh, una grande preghiera, ho letto che ogni Ave Maria, ho sentito, ogni Ave Maria è una martellata sulla testa di Satana, ho sentito che Maria attribuisce, e poi la gente o non lo dice, o lo dice male. Allora, siccome io adesso l'ho detto proprio bene, volevo dirvi che per recitare bene il Santo Rosario devi dargli del tempo, soprattutto essere almeno in due, almeno, o più persone a recitarlo, ma recitarlo, io oserei dire, non come lo si recita tante volte in chiesa, perdonerete e mi perdoneranno, nessuno voglio che si senta offeso. Ma certe volte viene proprio detto senza cuore, senza anima. Ecco. Io invece l'ho recitato qui nel mio studio. E poi soprattutto, e questo vorrei suggerirvi, procuratevi delle immagini dei misteri. Io a suo tempo ho lanciato un'idea all'editrice Città Nuova, mi ha ascoltato, ha fatto un libro con ogni mistero, una immagine di quel fatto lì. Oggi, ad esempio, ho recitato i misteri luminosi, il primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano e del Perugino, secondo le nozze di Cana, Giotto, Cappella degli Scrovegni, terzo il Sermone della Montagna, Beato Angelico al Museo di San Marco, quarto la Trasfigurazione di Raffaello in Vaticano, quinto l'Ultima Cena, Leonardo, Santa Maria delle Grazie a Milano. Io a suo tempo feci questo libro, adesso mi spiace che è esaurito. Io forse avrò in giro ancora una decina di copie, però non chiedetemele per favore. Procuratevelo voi. Io credo che ci sia in giro ancora altri libri che presentano. È tutta un'altra roba. Perché tu hai lì sotto gli occhi il mistero di cui si parla. Io alcune volte ho provato anch'io a recitare il Santo Rosario in automobile perché furbescamente, proprio la furbizia del maligno. Cioè, così mi porto avanti, guadagno tempo. Come guadagno tempo? Due amanti si danno tanto tempo, si danno tanti sguardi, tanti baci, tante carezze, stanno insieme. E io amo così tanto la Madonna, amo così tanto Gesù da dire dai, facciamo in fretta, guadagniamo tempo intanto che viaggiamo in macchina. Sì, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma poi, tornato a casa, ho detto, mi metto qui assieme a Esther a dire il rosario. E allora abbiamo aperto questo e ci siamo accorti una volta di più, perché poi le cose si sanno teoricamente, si fanno anche conferenze, che è una preghiera eminentemente cristologica. Certamente ogni Ave Maria invochi la Madonna, ma in ogni decina pensi a Gesù, proprio se tu guardi addirittura, ha detto oggi, quelli luminosi, no? Il battesimo di Gesù, le nozze di Cana, c'è Maria, ma è Gesù. Ammiravo Gesù così bello del giotto. Con in alto la mano a benedire. Dio, che bello, siate benedetti tutti voi, autori illuminati da Dio con la vostra genialità pittorica, che avete dipinto per il popolo. Veramente i mosaici, veramente gli affreschi di origine sacra sono la Biblia pauperum, la Bibbia dei poveri. Perché anche chi non sa ascoltare, non sa leggere, guardando capisce. Io non so, non voglio farla lunga, ma anche guardando il battesimo di Gesù al Giordano del Perugino, questo sguardo mite di Gesù, mentre gli angeli gli fanno festa, guardando le nozze di Cana. La ieraticità, la posizione di Maria, bellissima, di Gesù e poi anche gli sposi così belli. Mi soffermavo a guardare anche le acconciature femminili dei capelli, che belle. E poi anche il sermone della montagna del Beato Angelico, il terzo mistero, cui Gesù ha intorno i suoi discepoli che pendono dalle sue labbra e lui annuncia il regno, per non parlare della trasfigurazione di Raffaello, in cui tu vedi questo Gesù di cui l'evangelista Marco, mi pare, dice, aveva una veste così candida che nessun lavandaio saprebbe farla così candida. E infine l'ultima cena, quella più conosciuta, più e forse anche meno sulla quale mi sono meno soffermato, però io vi assicuro, cari amici, che ho detto il Santo Rosario con calma, fermo, pensando a Maria, pensando alla vita di Gesù. Il Rosario è la vita di Gesù e la vita di Maria. Poi è un po' di tempo che non metto più delle intenzioni. Sì, all'inizio dico, Signore, ti affido, Madonna, ti affido tutti coloro ai quali ho promesso preghiere, perché il sacerdote è come un lavandino in cui ognuno rovescia dentro tutto il suo sporco, rovescia dentro tutto il suo unto, rovescia dentro dove. Poi i piatti vengono lavati, vengono dalla preghiera, no? E dico, Signore, io te li affido tutti, però questo rosario lo voglio offrire alla Madonna gratis, senza chiederti nulla, Madonna. Anzi, come sto celebrando la messa da un po' di giorni, così anche questo rosario, voglio dire, recito il rosario sul mondo. Celebro la Santa Messa sul mondo, perché per lodare te, Maria, per ringraziare te, Gesù, con la Trinità. Sì, poi dopo voi sapete chi dovrà essere aiutato, ma proprio te lo offro come dono d'amore. Io vi assicuro, amici, ho celebrato un santo rosario. Godendomelo tutto, con calma, godendomi queste immagini. Se riuscite, mettete insieme voi, e se non riuscite, stampatevele. Se avete una stampante a colori, stampatevele da internet. Il primo mistero. Fate una vostra raccolta, coraggio. Tante volte noi mettiamo insieme dei nostri libretti per tante cose, per studiare meglio, per lavorare meglio, per pregare meglio. L'arte, amici, l'arte è amica della fede. La Chiesa l'ha sempre saputo, la Chiesa l'ha sempre fatto e ha sempre proposto un'arte classica. Ognuno poi faccia quello che vuole, vogliono farsi oggi come oggi un'arte astratta, facciano come vogliono. Io non sono capace, uno lavorava in officina, arriva un giorno e dice: Don, guardi che bel crocifisso che ho fatto in officina, glielo regalo. Io l'ho accolto per amore di quest'uomo, ma era un crocifisso fatto di fil di ferro, fatto di chiodi, ma io quando mai mi metto a pregare? È un simbolo, d'accordo, ma che differenza, amici, avere la crocifissione del Beato Angelico. Ma un'altra roba. Veramente amate l'arte, la Chiesa l'ha sempre amata e l'ha sempre proposta ai suoi figli. E dite Santo Rosario così, scusate, sono stato un po' lungo, ma volevo condividere questo modo e se volete magari farlo circolare, se vi sembra che ne sia degno da dare ai vostri amici, oppure dire un po' di rosario con i vostri bambini, magari una decina, due decine, perché poi si stancano, ma davanti a un'immagine. Se poi accendete anche una candela in casa vostra così, i vostri figli, i vostri nipoti non lo dimenticheranno più. Oh Madonna cara, affido a te questo mio parlare, fa che non sia vano, certamente viene dal cuore. E così sia.